526 Arrosto morto. Potete fare nella maniera che sto per dire ogni sorta di carne, ma quella che più si presta a parer mio è la vitella di latte. Prendetene un bel pezzo nella lombata, che abbia unita anche la pietra. Arrocchiatelo e legatelo con uno spago perché stia più raccolto, e mettetelo al fuoco in una cacciaruola con olio fine e burro, ambedue in poca quantità, rosolatelo da tutte le parti, salatelo a mezza cottura e finite di cuocerlo col brodo e in guisa che vi resti poco punto sugo. Sentirete un arrosto che, se non ha il profumo e il sapore di quello fatto allo spiede, avrà in compenso il tenero e la delicatezza. Se non avete il brodo, servitevi del sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. Se vi piace più saporito, aggiungete carne secca tritata fine.